giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. La manifestazione per Giulio Regeni di ieri sera a Fiumicello, Villa Vicentina, in primo piano in questa edizione, con la richiesta di verità e giustizia che pare sempre più contagiosa a 9 anni dall'omicidio al Cairo. E poi le manifestazioni per la giornata della memoria a Cividale e a Visco. Andremo anche a Pordenone per la mostra Mercato del disco usato. Ampia la pagina sportiva. L'onda gialla, come è stata definita, si è fatta dunque sentire anche ieri sera nella fiaccolata organizzata a Fiumicello, Villa Vicentina, nel 9° anniversario della scomparsa di Giulio Regeni al Cairo, un'iniziativa alla quale hanno partecipato centinaia di persone, dai volti più noti che accompagnano la famiglia alla comunità locale sempre stretta nel ricordo di Giulio. Un telo giallo stretto attorno ai genitori di Giulio Regeni è il flash mob con cui il popolo giallo ha abbracciato la famiglia a Fiumicello nel 9° anniversario dalla scomparsa del ricercatore friulano il 25 gennaio del 2016, ritrovato poi cadavere con i segni della tortura il 3 febbraio. Una suora mi dice, e quindi probabilmente immagino che le suore dell'ospedale Umberto I del Cairo hanno visto Giulio, mi dice: lei sa che suo figlio è un martire? E là io la conferma della tortura di Giulio. Pochi giorni fa la testimonianza della madre di Giulio nel processo in corso a Roma ai 4 agenti dei servizi di sicurezza egiziani. Processo che, viene annunciato a Fiumicello, sarà al centro di un documentario. Il regista Simone Manetti. L'intenzione nostra è quella di creare un qualcosa che racconti questa storia, che non è la storia solo di un ragazzo, di una famiglia o di una comunità come questa, ma è una storia che riguarda tutti, perché parla di diritti violati e i diritti riguardano tutti noi. Partecipata alla serata di Fiumicello, la fiaccolata e poi spazio a parole e musica. Molti gli ospiti, tra cui la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e tanti giornalisti e artisti, l'attore e regista Piff. Se pensiamo all'inizio di questa storia, se pensiamo alle mille difficoltà, e il fatto che siamo ancora qua e che ci sia un processo che sta andando avanti è semplicemente un miracolo. Fiumicello, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Giorno della memoria domani, la celebrazione solenne alla Risiera di Trieste, preceduta da decine di iniziative in questi ultimi giorni. Questa mattina abbiamo seguito quella di Cividale. La tragedia dell'Olocausto e la crudeltà del nazifascismo non hanno risparmiato Cividale. Al museo archeologico il ricordo delle decine di deportati della città alla vigilia del giorno della memoria. Cividale, che aveva una storica presenza ebraica risalente al 1200. Tra gli eredi di questa tradizione c'è la famiglia Piccoli. I fratelli Giampaolo e Romano Piccoli hanno raccontato quello che accadde nel 1940 davanti ai loro occhi, quando da bambini videro la nonna e la zia Elvira e Amalia portate via da una camionetta tedesca, destinazione Trieste e poi Auschwitz. Lì furono sterminate, epilogo che negli anni della Shoah accomunò milioni di ebrei, di oppositori politici, di omosessuali, di Rom. Era bambino anche De Kosser allora, che nel 1944 dovette nascondersi insieme ai genitori. Suo padre era un ebreo friulano di adozione che aderì alla resistenza come medico nel Coglio. I nazisti lo uccisero in strada a poche settimane dalla fine della guerra. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Visco ha celebrato la giornata della memoria con una cerimonia presso il sito che durante la Seconda Guerra Mondiale divenne campo di detenzione per i civili jugoslavi. Il progetto fascista di pulizia etnica nei territori dell'ex Jugoslavia occupati e annessi nell'aprile 1941 portò alla realizzazione del campo di concentramento di Visco, dove tra il 41 e il 43 vennero internati circa 3.000 prigionieri civili, in maggioranza sloveni e croati, ma anche serbi, bosniaci e montenegrini. Il comune di Visco ha deposto una corona d'alloro alla stele che ricorda i caduti di quel tragico periodo storico, e così anche i consoli di Slovenia, Gregor Schutz, e di Croazia, Nevenka Grdnic, hanno inviato i loro messaggi e le loro corone. I ragazzi del gruppo catechismo di Visco, assieme ai rappresentanti del Consiglio Comunale, hanno letto brani di Anna Frank e Primo Levi. Sentiamo uno di loro. Io sono nipote di esuli istriani che sono stati esiliati da Orsera, e quindi sì, qua c'è anche un pezzo di storia, e la storia si studia anche per non ripetere certi errori. Nel mondo però vediamo che errori simili si stanno ripetendo. Il sindaco di Visco, Elena Cecotti. Sicuramente è un obbligo morale e non solo istituzionale continuare a portare avanti queste celebrazioni del giorno della memoria, proprio perché il tempo allontana le coscienze e le persone da questi ricordi e questo monito. La regione è intervenuta con un contributo. A Visco abbiamo l'ex campo di internamento, a Gonars l'ex campo di concentramento e a Palmanova la caserma Piave, e quindi questo contributo regionale dovrà servire per iniziare un percorso di conservazione e di valorizzazione, pensando al passato ma guardando anche al presente e soprattutto al futuro. Visco, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. L'inasprimento delle sanzioni pare dare l'effetto sperato sul comportamento degli automobilisti nell'assunzione degli alcolici prima di mettersi alla guida. Lo riscontra la Polstrada di Udine, che ha fornito i risultati dell'ultimo programma articolato di controlli, svolto in particolare su un'arteria poco lontano dal capoluogo. 80 gli automobilisti sottoposti al test, nessuno ha superato la soglia di legge. A Pordenone, seconda giornata per la mostra Mercato del Disco, un appuntamento irrinunciabile in fiera per gli appassionati dell'ascolto vintage. La mostra del disco diventa sempre più grande e per la sua 35esima edizione si sposta nel padiglione principale della fiera di Pordenone. 150 gli espositori e un afflusso stimato per i suoi due giorni di oltre 4.000 appassionati. Per loro negli stand ci sono vinili di tutti i generi, dal pop al rock, dalla classica al punk anni 70 e non solo. Cosa stai cercando? Ma adesso stavo guardando qualcosa di Klaus Schulz, dei primi elettronica, e vedo se trovo qualcosa in generale, sia classico che i soliti classici del rock. Sto cercando dischi di George Benson. Ma io ho dei vinili dei Queen, in generale ne ho già preso uno. La passione del vinile è tornata di moda da diversi anni, anche se, dicono gli organizzatori, non era mai tramontata. Fiere come questa, piuttosto, compensano il calo avvenuto negli anni del numero dei negozi di dischi specializzati e anche dei siti internet. L'organizzatore della mostra del disco, Attilio Perissinotti. Arrivare qui vuol dire toccare con mano, vuol dire guardare il vinile, vuol dire capire se la copertina è buona, se il vinile è perfetto, e quindi non c'è migliore luogo dove venire per acquistare un disco. Io ad esempio trovo che il vinile abbia un suono molto più caldo, e poi c'è il fascino dell'oggetto. Sensazione tattile, suono speciale, ma anche un modo diverso di relazionarsi alla musica. Hanno quel fascino in più rispetto a semplicemente ascoltarla su un telefono. Ti metti in giradischi e dedichi del tempo alla musica, così non fai altro e dedichi proprio 30 minuti, un'oretta per ascoltarti e dedicarti alla musica. E se come nostalgia il vinile è ancora imbattibile, tra le tendenze notate dagli espositori si raffaccia anche il CD. Un grande ritorno, noi facciamo più vinile, ma sicuramente questa fiera qua i CD hanno avuto la meglio, ecco. Pordenone, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:23, passiamo al meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 12,5 gradi, Gorizia 11, Udine 10, Pordenone 9 gradi. In area montana, Tolmezzo e Tarvisio 5 gradi e 5 decimi, Sappada 1 grado, Piancavallo 2,5 gradi, Forni di Sopra 3 gradi, in quota sul Monte Lussari 0, sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado, sotto lo 0, sulla costa Lignano 10,5 gradi, a Grado 12. Le previsioni dell'ARPA: nel pomeriggio avremo cielo in genere coperto, piogge intermittenti sulla costa, moderate altrove, più consistenti sulle prealpi Giulie, quota neve oltre 1300 metri circa, sulla costa vento da sud sostenuto, possibile qualche schiarita, miglioramento verso sera quando le precipitazioni cesseranno a partire da ovest, ma saranno possibili nebbie in pianura. Domani cielo coperto con piogge deboli o moderate, quota neve in genere oltre 1200 metri. Nella notte verso martedì ci sarà poi poi un marcato peggioramento. Passiamo allo sport, in primo piano la pallavolo con il successo fondamentale per la CDA Talma Sons nel massimo campionato femminile, un 3-0 contro Pinerolo che consente alle friulane di avvicinare in classifica la zona salvezza. È il primo successo alla tisana, pubblico fedelissimo pienamente appagato che l'allenatore Barbieri ha ringraziato. Non è la prima volta che ci aiuta in questo modo, ha detto aggiungendo: non sarà semplice rosicare qualche punto alle big perché queste squadre stanno raggiungendo la forma, bisogna provarci, avere la giusta mentalità essendo spregiudicati, prendere punti da queste partite sarebbe importante, ma viviamola con la giusta serenità, sappiamo che il rush finale con gli scontri finali saranno decisivi per la classifica, ha concluso Barbieri. Prossimo match sabato contro Milano che è quarta. Calcio in Serie A, il giorno di Udinese-Roma in programma allo Stadio Friuli alle 15, bianconeri di Rugnaic che ieri in conferenza stampa non ha svelato la formazione cercano un successo che in casa manca da 3 mesi. Ieri negli anticipi successo del Napoli sul campo della Juve e dell'Atalanta a Como dove nell'ultimo turno l'Udinese aveva perso. E in Serie C la Triestina sarà di scena allo Stadio Rocco alle 17:30 contro l'Eco che in classifica ha 6 punti più degli Alabardati e li precede di un solo posto in classifica. Basket in 1 Trieste a Milano in trasferta per la sfida all'Armani che andrà in scena alle 17. Le due squadre sono appaiate al 5° posto dove le ha raggiunte la Reggiana ieri vittoriosa Tortona. Nelle file dell'Olimpia tante assenze, i biancorossi vorrebbero approfittarne ma Milano è anche attesa al riscatto in campionato dopo la pesantissima sconfitta in Eurolega. Intanto ieri gli anticipi di A2 hanno riguardato le regionali, entrambe sconfitte, la Gesteco Arieti, mentre per Udine è arrivato il primo stop casalingo. Nel giorno del lutto per la scomparsa del più forte giocatore mai approdato a Udine, quel Drazen Praja Dadipagic, ricordato con un minuto di silenzio ed alcuni striscioni sugli spalti del Carnera, l'APU incappa nella prima sconfitta casalinga della stagione contro la bestia nera Brindisi, che aveva battuto i bianconeri già all'andata. A trascinare i pugliesi, un Ogden da applausi, 25 punti con il 100% dal campo e 10 rimbalzi. Dopo un avvio favorevole all'APU, Brindisi si riporta sotto e il match resta in equilibrio per tutta la prima metà, chiusa con un +2 per gli ospiti sul 37-39. Dopo l'intervallo lungo è Udine ad allungare con Alibegovic e Johnson fino al massimo vantaggio sul 52-43. Ma è nell'ultimo quarto che l'inerzia della partita passa definitivamente a favore di Brindisi, anche vista la situazione dei lunghi friulani carichi di falli. Prima la Quintana, poi Del Cadia e Ogden consolidano il vantaggio dei pugliesi, che arrivano anche a +14, mentre dall'altra parte Johnson si fa addirittura espellere. Finisce 79-90 con Udine che fallisce la chance di andare da sola in testa alla classifica ed è attesa mercoledì da una trasferta difficile a Vigevano. Brutta sconfitta anche per Cividale che priva dei 2 centri titolari perde sul parquet di Rieti per 90-71, una partita che non è mai stata in discussione. I ducali riescono a restare attaccati al match solo nel primo quarto, chiuso comunque dai laziali sul 17-10. Il vantaggio dei biancorossi sale a +15 all'intervallo lungo e arriva a 27 punti di margine nel terzo parziale. Negli ultimi 10 minuti Cividale ci mette il cuore per tornare in partita e Ferrari, il migliore in campo tra i gialloblu, raggiunge i 22 punti, ma è uno sforzo inutile. I ducali restano al 4° posto in classifica e mercoledì attendono al Palagesteco la Juve Cremona. Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. In chiusura 2 appuntamenti culturali, Magisterium è il tema della nuova rassegna dell'Associazione Culturale Colonos, incentrata su sogni e utopie di persone capaci di lasciare il segno. Oggi l'inaugurazione da Socrate a Musk, passando per il Friuli, il titolo del primo incontro che sarà condotto da Bruno Forte e Walter Tomada a Villa Caccia di Lestizza, appunto ai Colonos, alle 16:30. Il Blank European Festival, che organizza eventi di sconfinamento tra pittura e musica ispirati al colore bianco, propone come primo appuntamento dell'anno l'esperienza immersiva Luce e Suono Blank Impro, in cui l'artista britannico Jonathan Hooper dialogherà attraverso il colore bianco con il violoncello di Riccardo Pes a Pordenone all'ex convento di San Francesco dalle 16. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Fra poco di nuovo la linea Radio 1, c'è l'anticipo del campionato di calcio, prossima edizione del GR regionale alle 18:30. Grazie per la vostra attenzione e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.